and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago e un accordo di ukulele. Quello fa sempre bene, bravo K, ti vedo nello spirito giusto, perché l'asilo è un luogo di pace e armonia, sì, dove i bambini crescono in maniera, diciamo così, consona per quello alla che loro ho imparato età. Queste settimane, caro Drago, l'asilo per me è un inferno, è un luogo di tortura. Sarà senso? Forse per colpa tua, ma sì, come, in che senso? Qui bisogna sempre lavorare, ma siamo intervistare, chiacchierare. Radio 24. Ma non Radio 24, ho capito, ma l'asilo è importante, no? Lasciare libero sfogo ai propri istinti, viaggiare con la fantasia. Vabbè, noi siamo qui per lavorare, tu fai quello che vuoi, io devo dare, ahimè, delle brutte notizie, perché sì, bisogna tornare su un argomento che abbiamo affrontato la scorsa settimana, sì, che nella Liguria flagellata dal maltempo, sì, un altro flagello incombe, un altro flagello si è abbattuto su Chiavari, la città che abbiamo detto l'altra volta essere il teatro di eroina all'asilo, uso di eroina, scambio di siringhe, scambio di dosi. Sono state arrestate delle persone all'asilo di Ri, vicino a Chiavari. Bene, la stessa città presenta all'asilo invece di Vico Malpertuso siringhe in terra, macchie di sangue, l'uso indiscriminato di droga da parte dei bambini, Drago, dell'asilo, che insomma mi viene da piangere. No, ma viene da fare un appello ai bambini tossicomani di Chiavari: non andate, non rimanete in asilo a farvi, ci sono tanti luoghi per farsi le pere in giro. Ah, ecco, allora le cabine telefoniche, ma no? Non voglio dire, più. Esistono, le antenute apposta, uno si mette lì tranquillo, non dà tanto nell'occhio, ma sono sta un po' appoggiato aperte. Al vetro, ecco, nessuno sta appoggiato in piedi. Poi oppure non so, ci sono le automobili. Sì, ma adesso non è che devi fare, dire, cioè non è istruttivo questo. I bagni, non so, dei fast food. Rompi le balle, non si può andare sull'altalena, non si può giocare, non si può suonare l'ukulele. Ma insomma, cosa ti metti a fare la mappa di dove andare a farsi le siringhe? Vabbè, Drago, basta non farsi all'asilo, perché l'asilo è un luogo appunto di educazione. Ma come diceva il bambino Vasco, i bambini dell'asilo stanno facendo casino, esatto. Ci va qualcosa per tenerli impegnati. E poi lui diceva ci va uno spino. Siamo passati adesso dallo spino alla siringa. Beh, ma si passa sempre così. Ma chiediamolo a lui, che lui c'ha il diavolo dentro. Il diavolo è un po', secondo me, in effetti. Il diavolo? È dentro. Dentro di noi, sì. Però credo che in effetti, ad esempio, anche con la coca. La coca. Utilizzato dalla coca, in effetti, per. L'ha utilizzata per lavorare. L'ha utilizzata per lavorare. Il medico. Ah! E gliel'ha detto il medico. Sì, ma non ho capito, scusa, il medico di Vasco è di Chiavari. Ma basta con sta storia di Chiavari. Ma guarda che sono in tanti che ci ascoltano da Chiavari e poi si offendono. Anzi, salutiamo i nostri ascoltatori di Chiavari. Sì, e salutiamo anche il bambino Vasco, però, che sicuramente ci sta ascoltando. Ciao Vasco! Oh, e adesso belli strafatti, Drago, soprattutto Drago, tu, è il momento di cominciare il nostro talent show. Il talent show del martedì. Ecco, che bravo, che si chiama? Chiedo asilo, no, Radio 24. Drago, su, ma basta con queste siringhe nelle macchine, nelle cabine telefoniche. Bambini e bambine, è il momento di... Martedì, il giorno dei talent show. Questo talent show unico al mondo... che va in onda a Chiedo Asilo. Sta improvvisando. A radio, sta improvvisando. Ha improvvisato, ma non improvvisiamo sulla situazione del nostro talent show. Assolutamente. Che vede in gara Dini contro Seba. Dini contro Seba sono due bambini che si affrontano tutte le settimane con una canzone nuova. Sì, ma ormai abbiamo ascoltato tre lo canzoni. Sa. Potete andarvele a ascoltare sul sito di Chiedo Asilo, sul sito solta di Radio 24, per sentire anche le vecchie canzoni, perché il giudizio che dovete esprimere è sull'opera completa dell'artista. Non è sulla singola canzone. Singola, esatto. Potete votare anche più volte, perché a seconda delle canzoni che cambiano, uno può preferire è la tua Seba tecnica, ed o è forse preferire per questo, a seconda della performance, scusami. È forse solo per questo che Seba in questo momento è in leggero vantaggio rispetto a Dini. Leggero, ma costante, perché è sempre stato in testa. Ma vedremo oggi dopo questa sfida, che io la vedo molto agguerrita. Ma prima di cominciare, però, dobbiamo introdurre chi. Ha 37 anni, sembra un dandy dell'Ottocento, ma si circonda di macchinette tecnologiche. È il giudice di talent show più famoso del mondo, è lui, Morgan. Quarto gruppo di canzoni. Questa volta cover contro cover. Attenzione, attenzione. Morgan. Canon contro Canon. Com'era il film? Kramer contro Kramer. No, questo è cover con Robert cover. No, con Paul Newman. Ma Dustin Hoffman. Con Henry Fonda. Harry Fonda. Ma con Harry Potter. Ecco. No, cover contro cover perché? Perché abbiamo Dini che oggi invece va, lascia diciamo il classicismo dei Queen o il rock americano. Dini, dei, voglio conoscere dei Dini. Aerosmith. Aerosmith. Ecco. Va di nuovo nel rock americano. Sì, dei, ma dei Ramones. Va bene. Non Ramones o Ramones. Ramones o Ramones, non lo so. Non importa, sentiamo Dini con China is a Punk Rock. Certo. Ha 7 anni e vi incanterà tutti con il suo broncio ammiccante. Bambine e bambini, con Sheena is a Punk Rocker, ecco a voi, Dini! Sheena is Punk Rocker, Sheena is... Mi piace come canta questo ragazzo. Punk Rocker, e qui ti arriva, eh? È bravo, is... qui arriva, bravo. È un buon po' sempre. Punk Rocker, qui ci vorrebbe il termine. Sì, ci sta. Non è un antifurto, è un termine. È veramente una sofferenza questo termine. Il termine in genere evoca una sofferenza, e sofferenza. Però è il pezzo, beh, certo che con l'aggiunta del termine di Morgan era ancora più punk. Questo era, no, questo punk proprio è, questa è la fine del punk. Ma cosa dici? Il punk è già finito, no, voglio, di in se stesso, autoreferenzialmente sentire, no, finito. Vogliamo sentire Seba invece che reinterpreta un classico, Pippi Calzelunghe, nella sua, con la sua verve punk. Ha 6 anni, si nutre di spillette da balia e gommina per i capelli, ma oggi rende omaggio a un suo mito di sempre, con Pippi Calzelunghe, ecco a voi, Seba! Sentite la canzone di Pippi Calzelunghe. Beh, non sei Calypso. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo, credo proprio che una non c'è, né, non c'è stata mai. Pippi, Pippi, Pippi, che nome fa fuori da me. Questo che c'è il timbales, oh, vedi? Bello, vedi? È Pro Tools, direi che qui è elettronica. No, no, non è, sono pentole, pentole, pentole veronesi. Ma vieni subito a suonarle a casa mia. Così, così, così bene. E devi chiederlo, devi chiederlo a Seba. Seba, il bambino quanti anni dice Seba? Il bambino ha 6 anni. E suona così forte le pentole. Suona le pelle, sì. Ha anche una batteria che la sfonda. Siete bugiardi. Ma non li spacca tutto. Vabbè, ma adesso non è importante, non è che durante i talent show si sta a indagare come sono fatte le basi. Come no, le faccio io le basi. Lo so, ma tu eri l'unico che faceva le basi, gli altri insomma. Ecco, allora, non parliamo di basi, ma parliamo di interpretazione. Qui, allora, insomma, stavolta ha spaccato Seba, spaccato. Spacca, ha vinto Pippi rispetto a Sheena is a Punk Rocker. Ha vinto Pippi, cioè, un pugno in faccia. Ha vinto Pippi. No, non sono d'accordo. Vedi, ma perché ha vinto Pippi? Per esempio, io penso che c'è uno spostamento di genere. Vedi? Che è interessante. Cioè, uguali, l'interpretazione, ma sì, è uguale. Perché lui è una, ma non è uguale la scelta. Non è uguale la scelta, cioè, da dove viene? È la differenza, il delta che ci interessa, no? Da dove viene il pezzo e dove arriva. Quello che c'è in mezzo ci interessa, cioè il processo che porta. Non è che il risultato sempre uguale ci interessi, ma da dove viene il pezzo, capito? Per cui il percorso dall'album dei Ramones e l'altro veniva dai Quinti, sono profondamente diversi e sono arrivati allo stesso risultato, quindi hanno fatto percorsi diametralmente opposti per arrivare il chissà cosa c'è dentro in questo delta. Ma adesso basta con queste robe greche, è il momento del televoto o mail voto. Dini o Seba, esprimeteli mandando un messaggio a chiedoasilo@radio24.it. Dovevi dirlo tu. No, ma mandate i lacci emostatici. Ma Radio 24. Chiedo asilo, è radio24.it. Chiedo asilo.